difficile, lo so, però è meglio. Musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. Programma col cuore di un bambino e il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che marcia, che spera, veloce per più lenta, violenta, sincera. Musica più lenta che marcia, che spera, veloce per più lenta, violenta, sincera. Chi viaggia poco resterà vicino, il cammino di Gigi D'Agostino. Scantinato e qualche suono maltrattato. Due. Gigi D'Agostino, fermati e ascolta. Il cammino di Gigi D'Agostino. D'Agostino, D'Agostino, il cammino di Gigi D'Agostino. I'm gonna hide. Veloce, poi più lenta. We'll be right back. M2O. Il cammino di Gigi D'Agostino. È una canzone che non sai, ascoltala, non si sa mai. Spettacolo, fratello. Di oggi è pubblicità, tararatata, pubblicità, tararatata, pubblicità, tararatata, pubblicità, tararatata. Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, musica, musica, Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, musica che unisce. Gigi D'Agostino, musica, musica, Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, musica che unisce. I alone in the world, I heard you my calling. Il cammino, nothing matters anywhere. D'Agostino. Aspetta un momento, rallenta. Get party people live. Mm-hmm. avanti. Tutti insieme siamo giganti. Siamo giganti. È arrivato il folclorista, eh? Dai un po'. C'è sta il folclorista, ma che cazzo. Gigi D'Agostino, piccolo D'Agostino, vivo Gigi D'Agostino. paese fuori dal mondo. Dammi un'accelerata, va. Yeah.